Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buonasera, la voce, ahimè, ancora registrata del compagno Oliva ci parlerà questa sera di a che cosa servono gli alpini. Mentre in diretta coloro che rimangono parleranno di bifide evoluzioni, di frustrazioni di intellettuali e di altre amenità.